coast to coast instrumental. Bounce, coach, bounce, with Kanye is in the house. Ci può fuori giù le mani dal mouse. Bounce, coach, bounce, with Kanye is in the house. G-A-G-L-E-A-R-I, Kanye, questa è la mia city, vieni a prendermi. G-A-G-L-E-A-R-I, Kanye, down, fight to do it, baby. Direttamente da Cagliari, la sedia rosso-blu degli Scombos. Gli scontri armati e le sciarpe copro nel volto. Lo stadio è quello, Sant'Elia per l'incontro. Cagliari squad, il fronte ha perso il controllo. Smoca giarro, ripresi in fretta i palazzoni. Passano prima le donne oppure calci nei coglioni. Noi di poche pretese, basta che siano accese. Mentre il palco sforna reggae fermo al corto maltese. Questa è Viale Poeto, se la sogna Varese. Con le clues è perfetto perché muoio di sette. Mentre in Viale le bici tolgo nei vestiti, tu stai lì con i tuoi amici mentre giochi al Play City. Chi che segano da scuola, li incontri al McDonald's. Piazza Matteotti, rapano per più di un'ora. Pure le pigne in piazza, ogni rima fanno la ola. Eccolo il motivo per cui io non ho un diploma. Eccomi di nuovo in giro a Cagliari Town. Bounce, cucci, bounce, qui Cagliari in the house. E ci può fuori giù le mani dal mouse. Bounce, cucci, bounce, qui Cagliari in the house. G-A-G-L-I-A-R-I, Cagliari, questa è la mia city. Vieni a prendermi. G-A-G-L-I-A-R-I, Cagliari. Odiaci oppure amaci. Korkusuz bir aptalım, yerinde buldum kendimi. Her tarafta aynı kara var, hiçbirinde kendi değil. Sen orospu olursan hepsi seninle eğlenir. Bir kenara bırakırlar, budur bence bilmediğin. Koşun sen ölünce yasın, güneş gibi tutulur bak. Soğuk olur her kısım ve bu reçleri kurutur. Son durumun bu anladın mı, çenem ırak kudutu. Kadar tehlikelidir her sebep olsun unutun. Midemizde asit oldum, benim fazlam zararsızdı. Sorunu hiç göremedi, sizin tayfa kararsız hep. Amaçları belirsiz, direk yapan gelirsin. Gerisine lafım yok ki dinleyince delirsin. Arkasında 27 tane pigme bek vokalle. Kendi sesini duyamaz ipne, nerede parti nerede? Doğdu doğalı parti yapıyor, olsa gelmem demem ama. Almanya'yı yakan adam bir de parti dene bakan. Eccomi di nuovo giro a Cagliari Town. Bounce, cucci, bounce, qui Cagliari's in the house. E ci può fuori giù le mani dal mouse. Bounce, cucci, bounce, qui Cagliari's in the house. G-A-G-L-I-A-R-I, Cagliari, questa è la mia city, vieni a prendermi. G-A-G-L-I-A-R-I, Cagliari. Odiaci oppure amaci. Eccomi di nuovo in giro a Cagliari Town. Bounce, cucci, bounce, qui Cagliari's in the house. E ci può fuori giù le mani dal mouse. Bounce, cucci, bounce, qui Cagliari's in the house. G-A-G-L-I-A-R-I, Cagliari, questa è la mia city, vieni a prendermi. G-A-G-L-I-A-R-I, Cagliari. Odiaci oppure amaci. Bounce in the house, in the house, in the house. Bounce, cucci, bounce, cucci, bounce in the house. Çünkü hepsi de uzun süre kalan yaz. Tutmalı tutabilir. Bounce in the house. B-A-U-S-R-2 in the house. Gidelim göster ona, girip hemen içeri. B-A-U-S-R-2 in the house. Gidelim ha ha ha, girip hemen içeri.